Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti da Salva Danaio e da Deborah Rosciani in particolar modo. Allora, nel bene e nel male, gli appassionati di investimento in borsa sono ancora tanti. Oggi ci occupiamo di una fetta particolare di questo mondo, vale a dire, per adesso passatemi il termine che so già che non piacerà agli interlocutori della nostra trasmissione di questa mattina, ci occupiamo degli investitori, come dire, mordi e fuggi, gli appassionati del trading online, anche se l'associazione a questo termine, a questa categoria, diciamo così, professionale di investitore era più adatta qualche anno fa, quando c'erano gli appassionati del settore high tech nell'epoca della new economy, come ricorderete. E allora molti di questi investitori, molti trader, si sono radunati nei giorni scorsi a Milano nel corso della 7ª edizione del Trading Online Expo, una 2 giorni dedicata proprio al mondo dell'investimento attraverso internet, una manifestazione rivolta agli investitori di piccolo taglio ma anche ai professionisti di questo settore che hanno in qualche maniera voluto andare a curiosare tra tutte le novità dell'investimento online. Ci sono anche tanti strumenti che recentemente si sono affacciati su questo mercato, nuove piattaforme, soprattutto si è molto evoluto anche il mercato perché sono nati nuovi segmenti di investimento sui quali approcciarsi. Ci sono stati seminari, corsi gratuiti, il tutto organizzato da Borsa Italiana e dall'Associazione Italiana di Analisi Tecnica. La manifestazione ha riscosso un grande successo e quindi per certi versi la crisi non sembra avere avuto una ripercussione pesante su questa nicchia di investitori. In realtà qualcosa è cambiato perché il panorama si è largamente qualificato e selezionato, ma accanto a questo c'è anche una novità, perché ci sono anche molti investitori neofiti che a quanto pare sono cresciuti notevolmente soprattutto nell'ultimo anno, in quest'ultimo anno in cui in borsa abbiamo visto di tutto. E allora cosa vuol dire tutto questo? Oggi ne parliamo perché peraltro è un tema che, a parte la rassegna di Milano, ci hanno sollecitato numerosi ascoltatori e noi per quello che possiamo fare li accontentiamo questa mattina. Buongiorno e grazie di essere con noi, Gabriele Villa, responsabile clienti retail di Borsa Italiana. Bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a lei, ascoltatori. E bentornato anche a Luca Barillaro, che invece è un trader indipendente ma soprattutto un esperto del settore. So che fa anche molti corsi di formazione nei confronti di chi non ne sa molto di tutto questo. Barillaro, bentornato anche a lei a Salva Danaio. Buongiorno a voi. 800 24 0024 il numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666 il numero invece per i vostri messaggi. Allora, la borsa oggi è piuttosto positiva, il quadro è favorevole grazie alle trimestrali che sono arrivate e che a quanto pare sono piaciute tutte quante. Questo riguarda Piazza Affari ma anche un po' l'Europa. Stamattina abbiamo avuto per esempio dall'Olanda i dati di ING, come sapete una grandissima banca olandese che è stata anche lo scorso anno fortemente, pesantemente ricapitalizzata dal governo olandese per l'appunto, ha ricevuto aiuti statali per 10 miliardi, adesso si sta ristrutturando e riorganizzando in maniera molto drastica. Oggi i dati trimestrali sono in linea con quanto il mercato si aspettava e il gruppo ha preso subito a correre oggi in borsa. Piazza Affari più ne 44%, sul FTSE MIB le altre piazze europee guadagnano tutte oltre un punto, Milano è la migliore e anche Milano è proprio spinta dai risultati delle trimestrali rassegnate da ieri sera a stamattina. Campari più 6,65, Mediaset più 4,26, sono stati diffusi dati anche della Popolare di Milano che è positiva in maniera però molto inferiore rispetto a queste prestazioni che abbiamo indicato. Abbiamo un più 4% per Mediolanum, Buzzi Unicem più 3,91, Intesa ha comunicato i dati ieri più 2,89, anche ieri è andata bene, Impregilo più 2,69, STM più 2,42, Generali più 2, Atlantia più 2. Un po' più freddo il mercato intorno ai conti di Unicredit che sono stati appunto diffusi questa mattina. Il titolo era partito con un rialzo di oltre un punto, ha bruciato tutto, adesso Piazza Cordusio è fermo sulla parità, 2,50 euro, questo il prezzo del titolo in questo momento. Continua a scendere invece Geox, una delle poche trimestrali di Piazza Affari penalizzate dal mercato, ieri meno 4 e anche oggi mette a segno un ribasso di quasi 2 punti, Terna meno 0,8 e Autogrill meno 0,48%, abbiamo solamente questi titoli negativi in questo momento a Milano. Abbiamo un nuovo record dell'oro stamattina in borsa, a 1.120 dollari l'oncia, abbiamo l'euro sul dollaro che continua a correre, siamo arrivati stamattina a 1,50,45, adesso siamo a 1,50,42, per cui dollaro sempre più giù e il petrolio è intorno ai $79 al barile. Possiamo lasciare la borsa, voglio ricordare solamente che oggi gli scambi saranno un po' più contenuti a Wall Street perché si festeggia il Veterans Day, sono chiusi i mercati obbligazionari mentre Wall Street sarà regolarmente aperta. Lasciamo questa borsa, ma di borsa continuiamo a parlare e oggi parliamo di una fetta di investitori abbastanza particolare, parliamo dei trader e quindi parliamo di trading online. Ad oltre un anno dallo scoppio della crisi finanziaria, i piccoli risparmiatori iniziano a ricercare nuovi modi per far fruttare i risparmi. E la novità è che scoprono l'investimento fai da te. Meglio se fatto online, senza l'intermediazione di broker e consulenti finanziari. Guadagnare, ma in alcuni casi anche perdere soldi, stando seduti davanti al computer, è possibile? Quanto oggettivamente si può pensare di ricavarne? Il trading online è un servizio che consente appunto l'acquisto e la vendita, attraverso internet, di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, future e titoli di Stato. Si tratta di un sistema sbarcato in Italia esattamente 10 anni fa, nel 1999, quando il nuovo regolamento CONSOB di attivazione del testo unico dei mercati finanziari ne ha regolamentato gli aspetti. Ma quali sono i vantaggi del trading online? Tra i punti di forza bisogna innanzitutto considerare i minori costi di commissione richiesti all'investitore, ma anche la possibilità di quest'ultimo di potersi informare bene sull'andamento di un particolare titolo o della borsa in generale, per effettuare le giuste scelte di investimento. Fattori che hanno contribuito alla diffusione del trading online tra una fascia sempre più eterogenea di risparmiatori. Accanto a impiegati, promotori e liberi professionisti, a comprare e vendere sul web oggi sono anche pensionati, studenti e casalinghe. Questo anche in seguito allo sviluppo di piattaforme semplici, grazie alle quali l'interazione con i mercati è ormai alla portata di tutti. E però bisogna fare anche un po' di attenzione perché si rischia di commettere tanti errori, soprattutto se si parte da zero e se si è solamente banalmente affascinati dalle potenzialità di guadagno in questo ambito. Attenzione, non è un mondo per tutti, per cui bisogna prima documentarsi bene, avere una certa chiarezza di idee e poi magari tentare, partendo però magari da pochi titoli, dagli strumenti più semplici. Allora faremo un po' di ABC questa mattina, ma vorrei partire subito con Gabriele Villa, Borsa Italiana, perché mi hanno raccontato che alla 7ª edizione del Trading Online Expo, so che stamattina dovremo utilizzare molti termini in inglese, cercheremo di tradurli tutti, seduta stante, alla pronuncia seguirà anche la traduzione per aiutare i nostri ascoltatori, però mi hanno detto che gli stand sono stati letteralmente presi d'assalto quest'anno. Assolutamente sì, questa 7ª edizione la ricorderemo per il superamento di tutti i record storici, giusto per dare due numeri, come affluenza abbiamo avuto 4.500 persone nei 2 giorni, di cui circa 900 ritornati, quindi parliamo di 3.600 utenti privati che hanno visitato la 2 giorni. E in media ve ne venivano a trovare 2.000 negli anni passati, se non ricordo male. Tra 2.000 e 2.400, quindi siamo oltre 25% di incremento anno su anno. Sicuramente c'è stata una forte affluenza a parte del pubblico risparmiatori, ma anche degli espositori, quindi i broker, i broker online, le banche commerciali, gli emittenti, tutte quelle istituzioni bancarie e non che hanno un interesse e basano la loro attività proprio sulla relazione diretta con il cliente, offrendo o servizi di accesso al mercato oppure vere e proprie piattaforme di trading complesse. Villa, vi ha stupito tutto questo? Allora, un po' sì, nel senso che c'è da dire che la fase di mercato crescente degli ultimi mesi ha forse favorito l'arrivo di nuovi utenti su questo mercato, però le condizioni di mercato non bastano a giustificare questo successo. Noi ce lo siamo spiegato analizzando anche i dati, guardando proprio l'interesse che tutto il set informativo che noi abbiamo fornito, noi e gli espositori, in termini di sessioni gratuite di education, presentazioni, sono state veramente prese d'assalto. Tutte le sale hanno avuto un numero di partecipanti superiore alla capienza. Questo significa un interesse molto forte, uno verso lo strumento finanziario to cure, secondo capire meglio da esperti come poter approcciare questi prodotti senza farsi male. Passatemi. E infatti Luca Barillaro, proprio su questo volevo sentire un suo primo commento, tra l'altro tra poco dobbiamo già andare in pausa. causa? Si può cominciare da zero, solo mossi dalla curiosità, o è meglio che si abbia almeno sempre un abbozzo di preparazione finanziaria e qualche rudimento di borsa? Il neofita totale può approcciarsi alla compravendita di titoli di Stato o di azioni attraverso internet? Ma guardi, a mio avviso il neofita dovrebbe prima di tutto informarsi su quello che sono i regolamenti del mercato in cui va a operare, dopodiché può utilizzare il trading online approfittando appunto della riduzione di costi e della grande fonte informativa che esso rappresenta per andare a fare quegli investimenti anche tradizionali, quindi titoli di Stato, fondi di investimento, ETF, che un tempo faceva lo sportello in banca. Mm-hmm. Questo è un modo positivo di interpretare il trading online. Nel momento in cui il trading online invece diventa quello che è un po' la carta di credito del trading, cioè quello che ha la carta di credito va a fare shopping senza il denaro contante, chiaramente è portato a comprare di più perché non si accorge di spendere. È uguale col trading online. Il trading online può portare a fare tante operazioni anche inutili nell'arco di una giornata, e quindi può portare anche in situazioni difficoltose tanti risparmiatori. Quindi attenzione, perché dal utilizzare il trading online in maniera cosciente e positiva ad entrare invece in una logica della bisca, questo il passo è molto breve, quindi bisogna stare attenti. È uno strumento molto potente da dare in mano a chi lo sa usare. Certo, c'è una percezione ancora per certi versi da qualche parte tra questi investitori, Barillaro, che, come dire, chi approccia al trading online lo fa per esempio per ottenere facili guadagni. Insomma, che cosa cerca chi vuole operare con internet ed effettuare appunto l'investimento in borsa o sugli altri segmenti di mercato attraverso internet? Nella maggior parte dei casi cerca di bypassare, quindi di sorpassare, di scavalcare il tradizionale sportello per poter pensare le proprie finanze da sé con una riduzione di costi di transazione. Questo è positivo. Dall'altro canto c'è da dire che nell'accezione comune il trader online è visto come quello che sta tutto il giorno davanti al video e compra e vende azioni, e questo è una cosa ben lontana dalla realtà. In realtà il trading online è una fonte di informazioni e la possibilità di accedere a tanti mercati con un unico software, con un'unica piattaforma, e quindi c'è la possibilità di diversificare i propri investimenti in maniera oculata. Ecco, purtroppo nel comune sentire delle persone, quando uno dice faccio il trader, si intende lo speculatore bieco che fa centinaia di operazioni al giorno, però non è così. Allora, Salva Danaio, parliamo di trading online. La settimana scorsa si è svolta a Milano la kermesse, non la settimana scorsa, anche due settimane fa, la kermesse dedicata al trading online, il trading Online Expo, una due giorni dedicata al mondo dell'investimento su internet, iniziativa promossa da Borsa Italiana. Noi oggi stiamo andando un po' alla scoperta di questo mondo, che è stato oggetto anche di altre puntate di Salva Danaio, ma siccome abbiamo tanti cambiamenti sotto gli occhi di tutti, cambiano i trader che si approcciano appunto a questo tipo di mercato, a questo tipo di segmento di investimento, e questo è stato, come dire, un aspetto che è stato abbastanza evidente anche alla luce di quante persone hanno partecipato a questa manifestazione. Trader professionisti, ma anche, come dire, assoluti principianti che in taluni casi, ce lo dicevamo prima a microfoni spenti al telefono, anzi con i nostri interlocutori di questa mattina, in taluni casi c'è anche chi ha perso il posto del lavoro e che adesso addirittura ha, come dire, la voglia, il desiderio e addirittura la tentazione di trovare un lavoro alternativo approcciandosi a questo mercato, non saprei neanche come definirlo. Gabriele Villa di Borsa Italiana, comincio con lei. Avete avuto anche questa sensazione al trading online? E che cosa ne pensate? Assolutamente sì. Allora, i dati sono veramente altalenanti, nel senso che, come dicevamo prima, circa il 40% dei partecipanti sono pressoché neofiti, quindi persone che o non hanno fatto mai trading o hanno fatto meno di un anno, quindi post crisi del 2008. Poi da un'altra parte ci sono delle persone professionisti che lavoravano in famose anche banche di investimento, banche italiane, per attività di trading, e avendo perso il lavoro o volendo intraprendere un'attività nuova si affacciano a questo mondo. Le difficoltà ovviamente non sono poche, nel senso che il set informativo e la possibilità di operare su un ammontare economico molto elevato, come può essere il portafoglio di una banca, è differente rispetto al trading online fatto dal singolo utente. Quindi ovviamente anche in questo caso pur trattandosi di persone professioniste, la formazione e, come diceva prima giustamente l'amico Luca, la conoscenza del mercato su cui si opera è fondamentale per ognuno di noi. Quindi insomma potranno anche essere grandi professionisti che hanno un'ottima padronanza, la conoscenza del mercato, le dinamiche economiche e quant'altro, però non ci dimentichiamo del fatto che se si è perso il posto del lavoro magari non si hanno le condizioni anche emotive oggettive per poter operare come consulente nei confronti di altri o anche nei confronti di se stessi. Quando si tratta di portare uno stipendio a casa non è che, come dire, l'approccio possa essere esattamente sereno. Luca Barillaro, magari mi chiedevo se anche lei ci potesse dare, come dire, la sua visione rispetto a questo aspetto piuttosto interessante della questione. Beh, il trading, l'investimento finanziario è una componente psicologica preponderante, di conseguenza nel momento in cui uno è costretto a guadagnare perché altrimenti non mangia la sera, quel momento lì è il modo migliore per mettersi in una condizione di perdere. Il punto fondamentale è che l'investimento e il trading online sono visti come un qualcosa che tutti possono fare, perché le barriere all'entrata non sono visibili. Vuol dire, io non mi sognerei mai di fare l'imprenditore in un settore che non conosco, non mi sognerei mai di fare una professione che non conosco. Quali sono queste barriere invisibili, Barillaro? Le barriere invisibili così sono... scoraggiamo già chi magari avesse voglia di avventurarsi in questo terreno senza avere le condizioni di formazione di base. Beh, la prima barriera è la capitalizzazione, cioè operare con capitali piccoli cercando di tirar fuori dal mercato quello che molti definiscono lo stipendio mensile. È un approccio sbagliato. Richiede enormi capitali e chi non li ha cerca di superare questo ostacolo con la leva finanziaria, cioè molti broker consentono di aprire conti e poi consentono di operare per quantità 5, 6, 7 volte superiori ai soldi che ci sono in conto. Questo è il modo migliore per bruciare immediatamente il conto in poche settimane. E quindi sicuramente la capitalizzazione, secondo il know-how, cioè la conoscenza di come funzionano i mercati. Molti si approcciano ai mercati finanziari senza sapere come funziona un'asta d'apertura, un'asta di chiusura, quando ci sono i dati macroeconomici, non hanno un set informativo adeguato. E da ultimo il set tecnologico, cioè teniamo presente che chi fa questo lavoro di professione non ha un computer o un video, ha tanti video, ha più linee internet, perché una deve essere di riserva dall'altra se una non funziona, quindi richiede degli investimenti anche pesanti in tecnologia, in software, in aggiornamento dati, quindi non è facile. Ecco. E poi da ultimo la curva di apprendimento, cioè negli ultimi 6 mesi il problema di aver avuto un mercato che saliva sempre ha fatto sì che sul mercato ci siano affacciati una serie di operatori privati che ha fatto ottime performance, ha fatto soldi non perché avevano un metodo, ma solamente perché si muove la corrente, di fare ecco, soldi. Perché avevano una corrente favorevole. Anche loro saranno dolori. Quindi allora speriamo di aver fatto un po' di selezione all'ingresso questa mattina, non naturalmente volendo scoraggiare chi invece ha un approccio più maturo rispetto a tutto questo. Ce ne sono tanti, ci sono infatti anche molte domande intelligenti e interessanti da parte dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24 o al 349 238 6666. Giovanni, solo un istante di pazienza, perché invece voglio subito leggere la domanda di Sebastiano, che ci chiede: desidero iniziare la mia nuova tra virgolette carriera di trader, e speriamo che sia parallela insieme ad un'altra più stabile, Sebastiano, ma chi mi consiglia la piattaforma migliore per pagare minori commissioni possibile? Incentra tutto il suo discorso sul tema costi e commissioni il nostro ascoltatore. Allora, Gabriele Villa, chiedo intanto a lei: quante piattaforme disponibili abbiamo sul mercato italiano? Quante ne sono a disposizione degli investitori italiani? Allora, teoricamente ce ne sono una infinità. Diciamo che le banche che hanno come core business, quindi attività principale, quella di offrire un'attività di trading online, sono quelle che erano anche presenti alla Trading Online Expo, quindi sono Banca Sella, Directa, Fineco, IV Bank, WeTrade, WeBank, Nuovi Investimenti, Twice. Ecco, queste sono le principali. Ognuna di esse ha delle specializzazioni o per mercato o per funzionalità o per costi, ma quello che volevo suggerire, se mi posso permettere, all'ascoltatore, cioè, è che che un approccio di questo tipo, ovvero guardare solamente il broker che ha costi di commissioni più bassi, è forse limitante, nel senso che visto che è un approccio iniziale a questo business, quindi questa attività di trading online, forse è consigliabile andare a cercare quell'intermediario che accanto alla piattaforma e accanto alle commissioni competitive ha anche una serie di attività formative gratuite molto ricca. Quello che ho appena citato sono sicuramente broker che accanto alla parte tecnologica offrono anche corsi gratuiti, un'assistenza anche telefonica, e forse per chi inizia questo elemento è più importante rispetto a risparmiare quei 50 centesimi per eseguito. Allora, sentiremo adesso anche Luca Barillaro su questi punti, se ha anche qualche suggerimento da dare agli ascoltatori che sono alla ricerca appunto della miglior piattaforma per poter operare su internet. Però ci metto insieme anche alcune domande piuttosto specifiche. Vedo quella di Giovanni dalla provincia di Napoli, che saluto. Giovanni ci aspetta da un pochino, eccoci a lei, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Sì, allora la mia domanda era questa: se io sul computer vedo un prezzo corretto interessante e metto in piedi un'operazione e al momento della chiusura c'è utile per me, può la banca rifiutarsi di riconoscerlo dicendo che il primo prezzo era sbagliato? Giovanni, allora tutto può accadere, perché abbiamo ben appreso come il mondo bancario sia tutt'altro che perfetto negli ultimi anni. Luca Barillaro, che tipo di equivoco può esserci stato in questo caso nella comunicazione con la banca? Può essere frequente quello che è successo, allora, a Giovanni? Prima bisogna premettere, sì, è frequente, perché bisogna premettere una cosa: la tecnologia ha dei buchi, ha delle problematiche che possono sorgere, ritardo di dati, colli di bottiglia nella trasmissione dati via internet, quindi capita spesso, specialmente nelle fasi di mercato veloce, quando escono i dati macroeconomici o quando c'è molta volatilità sul mercato, di vedere dei prezzi sui software di trading online che in realtà si discostano leggermente dal prezzo reale. Non a caso chi lo fa di professione utilizza più piattaforme proprio per avere più fonti di dati e verificarne l'attendibilità. Quindi probabilmente sarà successo che il prezzo che l'investitore vedeva differiva dal prezzo che c'era in quel momento, perché la piattaforma aveva un ritardo. Quindi non era, credo, non so se il termine è corretto, efficiente? Prego? No, non credo, voglio dire, la piattaforma in questo caso non era perfettamente efficiente. Sì, oppure il collegamento internet della piattaforma, il server che serviva alla piattaforma non era perfettamente efficiente. Non a caso mi ricollego a quello che dicevo prima l'amico Gabriele Villa, andare a pensare di scegliere il broker solo in base alle commissioni, al profilo commissionale, è un falso problema, nel senso che se uno vuole iniziare e cerca subito il broker con minori commissioni, vuol dire che vuol fare un tipo di trading spinto, è già entrato nella logica. Vuole ottimizzare proprio l'aspetto dei costi, certo, quindi evidentemente può giocare molto sui volumi. Esattamente, quindi se dovessi proprio scegliere, io alla fine chi più spende meno spende, quindi sceglierei magari un broker che mi fa pagare un po' di più, però nel momento del bisogno, quindi nel momento ad esempio della piattaforma che si blocca per un problema tecnico, mi dà una soluzione di backup, quindi una soluzione alternativa, un numero con cui dialogare direttamente con l'intermediario, che mi fa uscire dalla posizione, certo. Perché è proprio nelle fasi di mercato veloce, nelle fasi di alta volatilità, che è richiesto il servizio dell'intermediario. Allora, vorrei cambiare lavoro e cominciare, chiedo un ascoltatore, e non cito neanche i corsi che vuole fare perché non sono propriamente molto apprezzati da chi li conosce. Vorrei cominciare col Forex, ci dice questo ascoltatore, cioè con le valute. Faceva, credo, un altro lavoro, ma insomma io credo che sia proprio un po' un atteggiamento, dire, spregiudicato, se non del tutto inconsapevole. Luca Barillaro, certo che cominciare con internet e addirittura dalle valute... Guardi, non ci siamo. Non ci siamo proprio. I mercati valutari sono mercati 24 ore, quindi comportano uno stress e un rischio incredibili, e soprattutto sono i mercati che vedono come maggiori players le banche centrali. Quindi in una scala di difficoltà da 1 a 10, dove 1 è il più facile e 10 è più difficile, il mercato Forex è sicuramente il più difficile. Poi, per carità, c'è chi riesce a tirare fuori soldi dal mercato Forex, beato lui, ma il mercato Forex è sicuramente molto difficile. In ogni caso richiede molta resistenza, certo, visto il mercato 24 ore. Internet, comunque, cioè la possibilità di investire attraverso il canale internet dà l'opportunità, in ogni caso, se si ha la pazienza e anche la capacità di stare svegli giorno e notte, effettivamente di investire in tutto il mondo, Barillaro, no? Questo è comunque da una parte un rischio, ma certo anche una grande opportunità. Certo. certo sì, questo è vero, ma ritorniamo sempre un po' ai luoghi comuni, cioè dire ho guadagnato una certa percentuale, ho fatto una certa performance su un titolo della borsa italiana è un conto, dire ho guadagnato sull'euro dollaro piuttosto che sul cable, quindi sullo sterlina dollaro, fa magari un po' più chic, e quindi c'è anche questa voglia di esotica, no? di andare a cercare mercati stranieri, quando invece magari abbiamo una borsa perfettamente efficiente anche noi nel nostro piccolo in Italia. No, anche per certi aspetti peraltro molto all'avanguardia. Avremo poi modo anche di sottolineare i pregi di borsa italiana in questo settore. Buddy Fox, autore del blog Trafficante Volpino, buongiorno, benvenuta a Salvadanaio. Buongiorno Deborah. Allora, lei non è molto propenso a questo settore, se non ho capito perché, mi aveva già scritto prima. Diciamo che cosa rivela la statistica, il 90% dei trader chiude baracche e burattini dopo pochi anni. Allora, innanzitutto voglio dire che è evidentissimo che la tecnologia e come servizi per l'operatività sulla borsa siano notevolmente migliorati e siano un vantaggio per il pubblico risparmio, però non sono molto fiducioso sulla professione del trader, cioè il tempo pieno. Le spiego perché. Io l'ho fatto. Mi è andata bene, ho lavorato anche sul valutario, ho fatto tutte queste cose, però non lo vedo come un'attività che abbia una costanza nel tempo, cioè che si possa andare in pensione a 60 anni dopo aver fatto 40 anni di trading, anche perché come qualità della vita non è un granché. Però più che altro voglio fare una provocazione su una riflessione fatta da Patrick Girondi, sì, che è un decano della Borsa di Chicago. Dopo aver partecipato al forum di Taranto, dice queste parole: provo un po' di fastidio a vedere operare questi trader, mi sembrano più le corse dei cavalli che un'attività di negoziazione di borsa, il day trading è una lotteria truffa dove tutti perdono. Allora, magari è una posizione un po' estrema, Buddy, io la ringrazio per essere stati con noi. Questo ci porta a dire quello che dicevamo all'inizio e lo sottolineava molto bene Luca Barillaro. Io faccio la giornalista e mi occupo di divulgazione di tematiche finanziarie per poter permettere a meglio alle famiglie di conoscere cosa cambia intorno a loro e quindi gestire bene il proprio denaro. Non mi metterei mai domattina a fare il medico solo perché, non lo so, ho una sensazione molto chiara a proposito delle mie malattie e quindi penso di poter discernere di tutto anche di questo. Barillaro, ognuno deve fare il suo. Ah beh, certamente, certamente, questo lavoro non è un lavoro facile, è un lavoro molto stressante, è un lavoro poi che cambia negli anni, i mercati che oggi, su cui oggi si fa trading, su cui io opero oggi, non sono i mercati di 5 anni fa e non erano i mercati di quelli di 5 anni fa, quelli di 10 anni fa, quindi è un lavoro dove bisogna saper cambiare, bisogna sapersi adattare, perché il mercato alla fine è un qualcosa che non si può comandare, quindi il mercato ha sempre ragione, non possiamo dire abbiamo ragione noi se il mercato ci dà contro, e questo è il vero problema ed è il principale motivo per cui i piccoli risparmiatori o comunque i trader improvvisati perdono, perché nel momento in cui si entra nel mercato il sistema premiante è completamente diverso, non conta aver ragione, bisogna dimenticarsi del proprio ego e adattarsi alle condizioni mutevoli, e nel 2008 l'abbiamo avuto. Infatti, e poi magari non prendersela con le piattaforme piuttosto che con la banca, ma qualche volta anche prendersela un po' con noi stessi quando abbiamo delle aspettative troppo alte rispetto a quelle invece che dovrebbero essere ritenute ragionevoli. Giuseppe da Reggio Emilia, l'ultima chiamata di oggi, benvenuto. Sì, buongiorno. Io ho dovuto occuparmi di trading online, perché sennò i miei risparmi non decollavano mai. Questi grandi brokers professionali che dovevano cautelarci della crisi, dove erano quando dovevano darci qualche indicazione? Quindi ho dovuto occuparmi mio malgrado, cioè con un semplicissimo accorgimento, diversificazione, piano d'accumulo. Ma non c'è mica bisogno di un grande broker per fare una cosa del genere. Ho una piattaforma che la mia banca mi mette a disposizione perché faccio dell'home banking, ho quasi azzerato i costi di commissione, avevo un piano d'accumulo per i miei figli per fargli studiare, che sono ancora piccoli adesso, e in perdita del 35% con la Viva Fund, che cos'è? Questi grandi professionisti non sono capaci di vendere i picchi e acquistare le valli? chiedo scusa, buongiorno. Buongiorno Giuseppe, abbiamo capito chiaramente. Giuseppe, Gabriele Villa, chiudo con lei gli ultimi 30 secondi di Salvadanaio dedicati al rapporto fra il trading online e l'investitore completamente soddisfatto dai canali tradizionali, perché c'è anche questo da considerare. Assolutamente sì, anche perché noi come borsa circa 2 anni fa abbiamo fatto una ricerca sul comportamento dei trader online e dobbiamo dire che, sebbene nel sentito comune siano un po' dei pazzi che operano tutto il giorno, l'analisi del loro portafoglio dice esattamente il contrario, che sono persone che dedicano una percentuale, intorno al 20% del loro patrimonio a questa attività, tutto il resto è investito in obbligazioni, in immobili, in azioni, quindi in titoli. Sono molto prudenti. Non sono assolutamente sprovveduti, molto meno di quello che si possa pensare. Grazie Luca Barillaro, Gabriele Villa, per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani, parliamo del piano casa. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Salvadanaio di Deborah Rosciani.